Rafa Pignara, sì. Rafa Pignara, sì, sì. C'è qualcuno sul 10? Natalino, sei tu? No, sono Agostino. A me hai di quella roba? Frate, fumo, ne hai? Vabbè, Natali. Non ti ho più sentito, da quando è? Non me lo ricordo. Stavolta eri andato a pescare? No, no, no, mi avevi detto che poi c'era, è entrata corrente, eccetera. Sono andato a pescare, pensavo che potevo andare anche un po' troppo, se no, vediamo un po'. Eia, c'è un po' troppo vento per i miei gusti, ma non lo so com'è al mare. E dove, verso dove andate più o meno, per non dire proprio la zona? E verso Porto Torre. Eia. Oh, Natalì, dimmi com'è questa modulazione. Sto usando un apparecchio, un omologato Intec modello M150 Plus, microfono originale. Addirittura bellissima. Va bene. Eia. Allora, questo è quell'apparecchio che io usavo in macchina, che è quello che non ha non ha frequenzimetro e ha l'altoparlante frontale. Infatti c'ho qua la saffettina attaccata con le viti ancora, con i galletti. L'avevo tolto perché entrava poca gente, non so se rimetterlo adesso così. C'ho l'antenna anche nel bagagliaio, se voglio provare, attacco l'antenna e è tutto fatto. Così c'ho baracchino e antenna presso, capito? Tanto lo coprivo, non si vedeva, a meno che uno proprio non entri in macchina, allora. Ok. Vediamo se c'è Claudio all'ascolto. Claudio, sei già all'ascolto? Che ore sono? 5:30, 6:20. Vabbè, frate, avrai sentita questa radio, sì? Come te sembra? E che radio è? Sei tutto nasino, eh? Vabbè, quella è la mia voce. È un omologato, un Intec M150 Plus, quello che avevo in macchina, che usavo sempre in macchina. Ah, ho capito, io. No, già sei andato qua. E naturalmente ha il trimmer della M aperto, è inutile che te lo dica, no, sennò non esce proprio in radio. Anzi, così anche troppo. E tu apri tutti i trimmer e cosa vuoi ti faccia? Va bene. Ambretta, Tali. Ciao Cla, ben sentito, buonasera. Ieri è che non c'ero perché ero a cena fuori, capito? Mi ha invitato l'amica di mia moglie, eravamo tutti a casa sua. Eia, beato te, il Natalino si sta dando la bella vita, mi cene, uscite a pesca, cosa vuoi di più? Lo fa di bene, fa benissimo, alla grande. Lo manca a camminare, che subito mi facevano male le gambe. Ah, Lucia e Natalino, posso camminare, manca questa stampella. Non di la favola, mica la pompa C è messa male. Porca miseria. E a me un periodo mi fanno male un bel piante, la pianta del piede. Non ho mai sofferto, sono sto cazzo di scarpe antifortunistiche. Quando inizi a tenerle più di 6 ore nei piedi, guarda, una rottura di balle che non viene bene a dirlo. Guarda, per me è fastidiosa la punta di ferro. Ce l'ho anch'io. Oh, le avevo comprate mamma così tanto per comprarle. E mi dà fastidio sopra le dita a sentire questo coso duro di ferro, il puntale, no? Ci vogliono scarpe comode, a meno che non trovi delle scarpe antinfortunistiche, di quelle che sembrano pantofole, che stai molto comodo, tipo Scholes, ma non so se ne faccia antinfortunistica. Una rottura di scatole. Anche oggi non sono uscito. Dimmi, il raio me fa lendimi. E vabbè. Ha dato bel tempo tutta la settimana, vero? Così mi ha detto mamma. Ma Romano, mi sembra, dice c'era un peggioramento, poi non lo so se sia inizio settimana, non so, io sono partito dal lavoro che stava più avvicinando, qua è nuvoloso. Eia. Ma se ascolti, guarda, se segui 10 meteo diversi, ti dicono 10 cose diverse. Non è una scienza esatta questa del meteo. Mi sa che ognuno dice la sua, già avete richiamato, Marco, non lo so. E quindi Atalino va a pesca. Ho detto te che stai uscendo, almeno io sono abbastanza paralitico, proprio di muscoli, di... dovrei camminare, ma lo dico sempre e non lo faccio mai. Vedrai che mi vedrete a me fra 5-10 anni in sedia a rotelle. Ehi, quando ci tocca ce la prendiamo. E col catetere, mi. E con l'ossigeno. Così dobbiamo fare. Deia. Che cosa stai ascoltando di fondo? Radio Matroddi? Ho visto che... ma hanno riattivato quel ponte a 430.100? Prima era disattivato quel ponte. E un anno l'hanno riattivato. L'hanno riattivato da un bel... ma anche prima non... vabbè, ho tolto tutto anche, non stavo ascoltando io, dai. Sì, sto ascoltando lì, da altre parti, no, non mi interessa, giusto così per tenere la radio accesa. Eia. Prova a chiamare Valerio a vedere se c'è, dai. Valerio, se c'è, già si fa sentire. Vale, ci sei? No, che... ma cosa non c'è? Non lo senti? Va bene, vale, siamo qua, dai, appena ti liberi chiama che siamo qua. Ma cosa ti sente? C'è un baracchino di plastica, eh? Sì, no, sai cos'è? Ho messo appena di squelce per levare il rumore di fondo. E ti chiudeva, adesso ti ascolto. Eia, va bene, vale, già siamo qua, dai. Avanti, Natalino. Ehi, dai, già vai, vieni, già. Sentivo che parlava la moglie, magari ci hanno visite. E lì è... a meno che non metti un sipario, come si chiama? Un separé, per modulare, con le cuffie. Eia. Vabbè, sempre giornata fiacca, non stavo aspettando un pacco per mamma, ma non è arrivato nemmeno oggi, che ormai non arriva più, credo, che resta. No, fino alle 6:30 può arrivare, ma non credo che arrivi oggi. Roba di Euronova. Anzi, mi chiedo una cosa, visto che Postal Market e Vestro hanno chiuso i battenti da anni, no? Mi chiedo come fa Euronova a stare a galla, che è un cataloghino di Kikia. In confronto questo Euronova avevano una marea di roba, era grosso il catalogo. Non so, ah, Postal Market ha chiuso, non so. Quelli Postal Market, Avon, tutta quella cosa lì, non lo sapevo neanche, figurati. Eia, Vestro, Postal Market, guarda, una vita che li ho conosciuti, poi però... come sono arrivati i centri commerciali, ormai trovi tutto dappertutto, poi con internet non te ne dico, che ordini dall'altra parte del mondo, e quindi non facevano più affari e hanno chiuso. Ma io ci sono nato e vissuto con Postal Market, esisteva forse anche prima che nascessi io, poi una volta esisteva il catalogo CIA, ed era tutta roba di moda femminile, ma già dagli anni 60, quindi figurati, moda femminile, ne avevo visto uno vecchio di CIA, tutta roba, sai, giampa d'elefante, quei stivaletti alti, capigliatura anni 60, bei tempi. Io sarei voluto nascere nel 51, lo sai, nel 51, e vivere tutti i fenomeni, le musiche di quell'epoca, tutta la rivoluzione culturale e sessuale di quell'epoca. Addirittura, già va bene allora, Postal Market. Ti ricordi quando eravamo ragazzi? ragazzini andavamo a vedere le cose da posto al market, l'intimo. L'intimo donna, aspetta, era bello, faceva venire desideri strani, capito? Mancate il giornale porno, si vedeva quello. Già me lo ricordo. No, vabbè, ma io già trovavo altro, fregavo, perché mio zio ci aveva le ore, i giovani in porno sotto il letto, io gli fregavo le ore, e altro che postal market, mamma mia, di tutto ci aveva, le ore, poi anche i giornali a fumetti tipo Lando, te li ricordi? Oltretomba, quelle cose lì, l'altro Oltretomba era bello, Zora anche la vampira era bello, e li vendono su internet adesso, quelli, non ne fanno più così belli, all'inizio degli anni 80 hanno interrotto la serie. Ah, non li fanno più, boh, non sapevo, Zora la vampira, c'era anche quell'altro, mamma mia, quanti ce n'erano che... Quelli erano allora, adesso giornalini, ma è una baita più. Vabbè, poi quelli erano giornalini per adulti, mi pare casa editrice Squalo, mi pare di ricordare, c'era lo squalo proprio disegnato. Guarda, i migliori per me erano, vabbè, Lando faceva ridere, era sfondo sessuale ma era divertente, e c'è Oltretomba, era proprio infernale. Oltretomba e anche Zora la vampira era bello. Caspita quanto erano belli. Sì, sono spariti verso l'inizio degli anni 80, poi c'erano anche quelle cose tipo cronaca nera, cronaca super nera, era tutta roba di rapine, stupri. Proprio erano. Guarda che negli anni 70 erano dei depravati, per tutte quelle riviste che c'erano. Lando, Fiorello, guarda, ce n'erano un'infinità. C'era anche il montatore, che praticamente era un personaggio che montava mobili, no? Aveva la faccia di Buzzanca, uguale, però oltre a montare mobili poi si trombava anche, si montava le tippe belle, le signore che... ed era fumetti sempre, fumetti disegnati. Poi il tramonto di un'epoca è stato. Sì, il montatore, l'avevo visto, K-K. E Natalino le leggeva di quelle cose? Natalino? Natalino! Una volta mi ricordo che avevo pigliato uno di quei giornalini a foto, le ore, io ho fatto vedere a nonna, nonna guarda, e lì ha sgranato gli occhi e ha detto: dove l'hai preso? Rimettilo a posto. KK. Comunque, a parte tutto, Claudio, come la definiresti questa modulazione? Toni bilanciati, toni sul basso o toni sull'alto? Toni bassi, c'è un bel. Un bel? Vabbè, purtroppo sì, questo è un po' così, però si può ovviare. Se metto lo ZG da palmo amplificato, migliora molto, perché gli dà toni alti. Infatti la copiata ZG da palmo più questo è buono in macchina, buono, ottimo anzi direi. E ce l'hai sempre quel ZG o l'avevi dato? No, sempre, quelli non si danno, assolutamente. Anzi, mi volevo prendere anche quello, io ho l'M95, no, che è amplificato con i beep, con i Roger B, volevo pigliare quello normale, l'M93 senza beep, nudo e crudo amplificato, costa una miseria, 24 euro costa su internet, però poi devi pagare la spedizione, guarda, se ce l'ha a Fusaro lo prendo a Fusaro un giorno, quando ce l'ha lo prendo. K-K. Non lo so se li aveva portati più, ma funzionavano bene quelli, qualità presa andavano bene. Sì, e poi dà quella particolarità che piace a me, un po' di tonalità alta in barra mobile, che quando si è basso i toni alti si sentono meglio, piuttosto del DM1000, anzi il DM1000 lo sto usando ben poco, e basta sto bip, li senti i bambini col PMR, bibibibi. Stanno tutta la sera così a pigiare il tasto call anziché a parlare. se fanno un casino. Insomma, luna e sole, noi questi bambini, una volta ho sentito il segnale fondoscala di Baba, non ti dico con quale fatica, ma Y, ed erano, sì, tipo luna e sole, poco prima di arrivare a Piazzale Cigni, quella zona lì. No, con quello grande, l'antenna esterna, già li sento. Però sono sul ponte, quindi sto ascoltando in UHF, io ho le radio separate, già lo sai. Quindi ho quella in VA 525, quella in U, sto ascoltando a 430-100. Invece col portatile non li sento tutti questi rumori in PMR, capito? Va bene, ma è Natalino che fine ha fatto? Natalino! La gente all'improvviso deve staccare, no? Sono venuto da qua. A me mi arrocciavi quando mi assentavo senza avvisare. Questo PMR, comunque. Ah, ti racconto una cosa. È presente i Brondi FX Dynamic? No, magari non ce l'è presente. Vabbè, erano un modello ottimo, ottima modulazione, ottima ricezione, no, della Brondi. E erano dichiarati per 12 km, no, sempre 500 mm. Io ho detto, ma a me puzza, come fa? Dice che l'antenna è migliore, vabbè, può essere migliore tanto pure, ma 12 km dichiarati contro i 5 degli altri. Io li ho comprati in coppia. Beh, cosa hanno fatto? Cosa ha fatto la Brondi? Quell'apparecchietto sotto il vano batteria ha una levettina, no? In una posizione da 500 mW, nell'altra posizione ne dà, non lo so, 3 teorici, 2, 3. Beh, ho scoperto che la Brondi di fabbrica l'ha messo già in alta potenza. Perciò dichiarava 12 km, è chiaro, caspita, con 3 watt, 2-3 watt lo credo e fa 12 km in area aperta, capito? Però così facendo la Brondi può mettere nei casini un utilizzatore ignaro che li compra e li usa, magari c'è un controllo e vedono che sono ad alta potenza e vagli a dire che la Brondi l'ha fatto di fabbrica, invece me ne sono accorto, di fabbrica le fate alta potenza e siccome le batterie sono mini stilo e in alta potenza consumano e durano poco, io cosa ho fatto l'altro giorno? Io volevo degli apparecchi originali, no, proprio legal 100%, ho aperto le viti, no? Ho abbassato questa levettina a bassa potenza e adesso sono omologati a tutti gli effetti, che inutile avere tutti, no, alta potenza tipo l'MT5050, quindi adesso omologati a tutti gli effetti ho i Brondi FX Dynamic e i VT405 della GBC vecchi, vecchi pure funzionano ancora. Aspetta un minuto. Non mi hai seguito, dai. No, Marco, un secondo che sono al telefono, già ti ho capito quello che stavi dicendo, un minuto solo. Eia. Natalino? Hola. Sì. Eccomi Marco, scusa che ho con un collega al telefono. Marco? Marco? Marco? Un attimo, ci sei? Oh, Marco. Eia, un attimino, stavo cercando l'MB più vale, sì, buonanotte, lo ZG da Palmo, l'ho trovato, dai, in quella paraonda non riuscivo a trovarlo, adesso lo attacco, ah, che peccato, vabbè, nulla, adesso lo attacco, dai. No, ti ho seguito il discorso della Brondi, io ne ho 6 di quelli che mi hanno dato lì all'albergo della Marinetta, qualcuno è carico ancora, qualcuno è scarico, però già funzionano, sono bei, adesso sta per piovere, minchia. E un attimo che l'attacco. E io sono qua. Attacco alla 380, ciao qua. Oi, ciao, quanto giù, vabbè. Poi stavo guardando un po' la televisione e mi stavo giocando, mi stavo, dai. Io sto facendo chiacchiere con Marco, poi mi hanno disturbato al telefono, staccato un attimo. Mi sa sa che piove, sta mettendo male, male, male, male. Non pindacciare. E qua dalla finestra verso giù vedo l'aria molto, molto brutta, molto brutta. Guarda, è entrato Giulio, riprende e fai girare. Ciao Giulio, ben entrato. Non ti ho sentito perché stavo cambiando il microfono e qua sparisce l'audio. Allora Claudio, dopo il rilancio Giulio, vedi un po', questo è lo ZG da Palma a 3/4, la batteria è ricaricabile ma c'è da un bel po', non so se sia ancora carica, come ti sembra, a toni più alti? Toni acuti, bellissima la modulazione adesso, prima avevi tonalità molto bassa, adesso va bene, vero Giù? Sì, va benissimo, io ce l'ho a 3/4 una ragazzosa, oh Marco, ciao. Ciao, va bene Marco, a buglia, anche troppo. Eia, non è al massimo, è a 2/3 o 3/4, giù di lì, dai. Ecco, adesso vi faccio la prova. Adesso al massimo distanza 20 cm, massimo distanza 20 cm, c'è da dire una cosa, questo non amplifica molto, però almeno mi dà i toni più alti su questo apparato, ok? Guarda, così allontano tutto il braccio, come ti sembra Giulio? Ti sento benissimo, non ci sono problemi, anche se sei in distanza al microfono ti sento ugualmente bene. Via, mic, bip. Bip doppio. Bip doppio. No, io ce l'ho nel microfono, questo microfono qua, al bip, anche questo è doppio. Se lo faccio sentire, aspetta, che cambio posizione. Vediamo se è cambiato, guarda. Eia, 3 bip. Adesso ho messo anche il bip dell'apparato, adesso ne fa 3. Sì, va bene, non importa com'era, questo è inevitabile, questo lo devo, ecco qua, lo devo tenere per forza perché nel microfono, per cui nell'Ecomaster Pro. Eia, Claudio, non sembro pomponi adesso? Se ne aggiungi un altro sembri molto pompa davvero, È motopompa, non è più entrato, no? Ogni tanto entra PMR e qua non entra. Entra 27. Visto che è in postazione, dico. Ci sei Pomponio, all'ascolto, ci sei? Perché se non c'è vuol dire che è dal fratello. Non sono ancora sceso. Ai, me lo dici adesso, mannaggia. Potevamo pigliarci una birra. Se sapevo che eri libero. L'hai letto il messaggio che ti ho mandato nel pomeriggio? Sì, ho letto. Guarda che sono libero qui fino alle 7:30, 8, quindi non c'è problema, se ne vuoi approfittare. Sì, ma non hai detto che devi andare a tuo fratello? 7:30, 8, devo scendere da lui, che devo dargli a cena, capito? Sono a casa ancora, stavo guardando il coso, un apparecchio che mi ha dato, cazzo, e non si accende, però l'eco funziona, cioè in pratica adesso è 9. Meia, io non capisco come mai le persone non si rivolgano all'assistenza ufficiale. Cioè se uno c'ha un Midland, un coso, uno importato da Proxel, si deve rivolgere alla Proxel, che è l'unica che ha i pezzi. E non lo fanno. Vabbè. Qui giù Baibi. Riprendi Giulio per Antonello. Ok, ciao Antonello. Cosa stai combinando? Riparando, sempre riparando, meglio così significa che guadagni soldi. Certo, sto diventando ricco, sono andato, ma figurati. No, è un S9 che c'avevo io, l'ho dato a uno e mi ha detto che ha fatto questo difetto. In pratica non succede nulla. Quando accendi dalla posizione dell'accensione del volume, si sente solo l'audio dell'eco, basta, funziona solo l'eco, non funziona l'altro, tutto il resto rimane spento, non riceve, ne trasmette, nulla, non, se vuole faccio contatto, solo adesso non riesco a capire perché non si vede un accidente con tutti questi cavi che ci sono. E quindi ho voluto dire tutte le fascette, una per una, e ora arrivare ai cavi, farmi spazio e controllare, magari faccio contatto, ma che dico magari che non funziona bene, così sì. A meno che non sia potenziato, te la cambiare, il discorso è quello. Mi devo raccontare tutta la mascherina. Piano piano riuscirà a trovare il difetto. Sono poi creature che sembrano una stupidaggine alle volte, però con la stupidaggine si fa prendere la testa. Purtroppo la rettura è così. Per ricordi che tempo fa che avevo detto da cosa poteva dipendere, che non mi funzionava in AM, in FM, eccetera. Tu mi avevi detto, lei dice il commutatore, niente affatto, non era per niente il commutatore. Non si era attaccato niente e funzionava anche benissimo il commutatore. Gira, alla fine sono riuscito a individuare che c'erano un paio di saldature che ormai erano scadute, per cui ho fatto altro che rifare le saldature apposta. Ed ecco che sta funzionando, questo è un malattino che sto usando in questo momento, dopo l'avevo recuperato. Ma prima ho preso la testa perché sembrava tutto a posto, ma poi alla fine ho preso la lente ingrandimento e mi sono reso conto che queste saldature non erano perfette. Le ho rifatte ed ecco qua, ci siamo. Via, a Luglia. A volte capita di pezzi strani, ma con le immagini magari. Adesso lo controllo domani sera, se vuoi anche andare a fare un'antenna al centro storico. Domani sera lo controllo tutto e vediamo. Forse che sia anche una falsa saldatura, perché adesso così su due piedi non te ne accorgi. Lo controllerò. Poi c'ho da fare l'altro è un casino, l'altro quello VEU. Saldare nelle micro con le piste, le micro piste è un casino. Lì me ne scoglio che davvero. E soprattutto ci vuole la stazione adatta. Ci vuole un saldatore che abbia una punta a fine fine, quindi adesso io devo prendere gli aghi di nonna, agganciarla al saldatore e comprarmi quel da fusare domani quando si finisce completo quello stagno fine in modo che appena scalda appena metto tac capito saldi immediatamente senza fare la goccia o cosa del genere. L'unica se no mi tocca usare il fondo, però usando il fondo il rischio di saldare tutto il transistor, capito? No, Antonio, non comprare quelli da Fusaro, perché hanno la punta che è fissata da una bettina che c'è lì proprio vicino, in prossimità della punta stessa. Appena che scalda, si allenta, si dilata il metallo e non scalda più. Cioè, non va bene. Vai da coso, come si chiama? Grassi, quello che c'è a Fredaniede, nella curva dove c'era una volta Porto Bello. L'ho comprato io con la punta sottilissima, 7,50 euro, una cosa del genere. Ma ti posso garantire che è un amore, è veramente bello quel saldatore. C'è anche una confezione di coso, di taglio e anche un barattolino piccolo di sossidante, di pasta salda, insomma. Fai girare anche per Claudio, poi io lo attore. E a fare ripido saldatore faccio prima. Il saldatore è quello a 10 watt, perché di più non li posso mettere, se no mi rimane il pezzo in mano. Avanti Cla. Sì, ce l'ho anch'io quello, Antonè. Funziona benissimo, sì, l'ho comprato lì anche io. 7,50. Funziona benissimo. Va bene. Ciao, buonasera, ben ascoltato. Ok. Riprendi Marco che do a mangiare il cane. Un secondo solo. Eia, ci vorrebbe la stazione aria calda per Antonio, per l'SMD. Stazione ad aria calda, è anche buona. Perché lì sennò sciogli tutto, eh. Ecco le cose lì, è un casino aggiustarle, Antonio. Magari tiro quasi fa, per 20 euro magari, boh. Ah, vabbè, è solo un piedino di un coso, un transistor, non è che ha staccato tutto il transistor, non solo in un casino, solo un piedino, cioè. devo cercare di con la lente di riagganciarlo in uno all'altro e metterlo un pezzo di filo di fine saldato. Una volta che l'ho saldato con lo stampato, poi lo saldo direttamente nel piedino, è fatto ed è a posto, capito? È una fesseria, è un difetto di fabbrica però questo, perché quando la compatta a volte funzionava, come a volte non funzionava, dopodiché non ha funzionato del tutto. E me ne sono accorto piano piano, perché con un lago, cazzo, se si è levato il piedino nel tassista, allora sei tu. Tutto il resto l'ho trovato a posto, dietro, lì, l'attacco dell'audio, delle cuffie, eccetera, eccetera. Solo quel tassista lì che poi è collegato a un condensatore, capito? Sì, Marco, ho visto un video un mesetto fa, proprio come per il saldatore SMD, no? E c'era questo che ha usato una specie di SUA capello, perché non era però il saldatore, non pensare che era il saldatore, no, assolutamente. Era una specie di SUA capello. Beh, ti dirò che è riuscito a staccare benissimo l'integrato che c'era, perché tu lo sai, no? ci sono un sacco di saldature, in un'unica volta. E se fai con saldatore normale non lo puoi fare, non puoi staccarlo, non è possibile, bisogna staccarlo tutto. Però ho riuscito questo, nonostante stavo facendo la dimostrazione, un video al computer. Figurati. E beh, alla fine la stazione era calda, sfrutta quel principio lì, solo che questi SMD sono troppo piccoli, te ne escono gli occhi, poi devi avere la mano da chirurgo, la mano ferma, è una dannazione. Erano così belli i componenti classici nei baracchini, è uno spettacolo cambiarli. E vabbè, il progresso è... Sul progresso, in sardo, alle volte il progresso è anche un regresso, più di una volta è successo, ma in tantissime situazioni, non solo in elettronica, ma un po' in tutto. Vabbè, dai, avanti Antonetto, poi grazie a Claudio se è rientrato, vai Antonetto. Famiglia, bisogna adattarsi sulle cose. Non ne vale la pena comprare un saldatore aria calda, hai capito, per fare un baracchino ogni 50 anni, quindi no, non ne vale ancora la pena. Quando capita mi arrangio e va a far cuffia. Ricordatevi, sia un danno, allora no, non manco lo faccio. Capito? Di solito lo mandano alla fabbrica, si arrangia la fabbrica, e neanche quella a volte, perché io una volta avevo comprato un DVD, avevo comprato, era difettoso, sai cosa l'ho fatto? L'hanno preso, me l'hanno fatto, l'hanno mandato su alla fabbrica, neanche la fabbrica ne l'ha sistemato, ha preso, me l'hanno mandato direttamente nuovo, e me lo sono tenuto, quelli che l'avevo regalato a un'amica, l'avevo regalato, di quelli DVD si mettono in macchina, dico io. Scusate, mi trasferisco un attimo nella stanza più piccola della casa, un attimino, riprendete voi, eh. Eia. Beh, Antone, come quella storia che ti ho detto, cosa avrei da aggiustare? Lì lo cambiano subito, lo sostituiscono e l'altro oggi lo lampani. È così ormai. Bene, bene. Adesso ti mando la foto di quello che sto usando adesso, Antone. Per curiosità. KK. Antone, mi senti bene? Sì, immagino di sì. È una copiata buona, come? Ho fatto chic. L'ha mandato ma non l'ha ricevuto. Non si è accesa la freccetta, vediamo. Forse... ma ce l'hai spento, no? No, è acceso, solo che c'è il wifi che non è... che in pratica è disinserito, capito? Perché mi aveva mangiato la carta l'altro giorno, quindi bisogna che scendo giù, quando scendo giù lo dicevo. È finita la pacchia col calo felice? Vabbè, da quella parte sì, però io mi posso agganciare al palazzo che c'è di fronte con i vanni, in pratica dove c'è quello che c'ha i videogiochi, lì mi posso agganciare a gratis. È aperta quella linea, è anche forte, arriva fino al, tranquillamente metto l'antennino sopra il tetto, quindi io mi aggancio col computer, che posso guardare ciò che voglio, anche i film, quello che è. Solo che è un terremoto, quando chiude il negozio, figlio attacca tutto, capito? Computer quando c'è, quindi wifi non funziona più. Dopo bello sarebbe, viene a sfruttare gli orari, dopo le 5, fino alle 3 alle 4 del mattino in pratica. Poi adesso stanno oscillando le persone con la fibra, fibra, come la pubblicità, con Fabri Fibra. E io gli ho detto, ma no, guardi, anche se lei mi dà 100 megabit al secondo, a me non mi servono, non mi servono assolutamente. Unicollo, scaricare il film in pochi secondi. Bisogna vedere se le fonti ci sono. Vabbè, poi no, il discorso è più ampio, dai. Bene bene. Che bello questo aborto di baracchino, è bello che non devi dare controlli perché non ha smitter. Ah beh, allora va bene allora. Guarda che la fibra non è che te ne fai molto, perché fino alla scatola esterna che c'è in strada c'è la fibra. Dopodiché, già lo sai, ci sono cavi vecchi, quelli bianchi e rossi, quindi sarebbe inutile. Non c'è tutto questo granché di segnale, capito? Quindi in pratica per avere il segnale molto veloce bisogna cambiare tutti i cavi di tutte quante le palazzine, nuda nuda, dalla scatola di vibrazione esterna fino al pozzetto che c'è in ogni palazzina. Poi dalla palazzina devi cambiare i cavi per ogni piano, per ogni inquilino, il discorso è quello. Troppo difficile. Se l'appartamento nuovo sì che va bene, se fosse stata una villetta nuova, per dire, quindi direttamente all'esterno ti aggancia la cabina dove arriva la fibra, tac, l'attimi, per dire, o ti agganci lì e va direttamente in casa con la fibra, ti metti le prese, latte, quello che è. Il problema è che devi stare attento ai truppi, ragazzi, perché mi piace parecchio la plastica ai truppi, Eccomi, stavo facendo la prova con il ricevitore, stavo ascoltando il beep. Tarari, tarari. Bella caga, beh, bella, già hai capito. Cagata, già ho preso. Avanti. Pistoletta. Vabbè, no, il beep, già c'è, no, non è un problema, ma... per cui... Ripeto, nella verità c'è anche il baracchino, in questo baracchino c'è anche il mic, se dovessi mettere un microfono normale, per adesso che sto usando, come ho detto poc'anzi, Saventa, Ecomaster Pro, quello ce l'ha già di per sé il microfono, qui ce l'ha anche il baracchino, il classico mic, quindi pip e basta, capito? Vai Marco. Sì, anche qua i due beep sono del microfono, il baracchino ha questo beep, bruttino, non è un granché, però c'è, disinseribile ovviamente. No, questo è fisso, non c'è niente qua per disinserirlo bisogna farlo dall'interno. Come Superstar, certe volte è bello averlo, toglierlo, sai, di notte, a me può dar fastidio quando uno c'ha le cuffie, che ne so, e invece è fisso, come il 3006, mi pare fosse fisso anche lì. Infatti è quello, l'apparecchio è quello. Giusto, hai ragione. Adesso ti mando la foto del baracchino ridicolo che sto usando, non ha nemmeno smitter. Nemmeno smitter? Io ne ho uno così, il Catalina, un vecchissimo baracchino di 45 anni fa, e quello che si trasmette in Catalina, te lo ricordi io, Antonio, Catalina? Sono rientrato. Sì, e già lo ricordo quello di Catalina. Un vecchio apparecchio, però c'è una cosa in Catalina, mi sembra, se non mi ricordo male. Gianni Capito di Bus, se non mi ricordo male. Avanti, che la riprendo. Catalina 2, è un bel baracchino quello, ma ce l'hai proprio come baracchino giù? Sì, certo, è vecchissimo, senta, chissà se ha funzionato ancora, sono 20 anni senza vederlo, non senza usarlo, senza vederlo, perché non conservato insieme a tanti altri dentro lo scatolone, ma chissà se funziona, penso di sì. Già funzionano, ma io ho provato il 48 dopo non so quanti anni ce l'avevo dentro l'armadio, eppure l'ho attaccato e ha funzionato subito. Questi baracchini non si guastano mai, ma si guastano sono sempre le radio, quelle più grandi, capito? Quelle basta e non le usi ed è un casino. I baracchini li lasci anni dentro l'armadio, lo prendi, lo accendi e è sempre funzionante. Non sempre. E guarda quello che uso io, è baracchino, conta quanti anni era fermo, sono baracchini seri, tu c'hai i baracchini quelli del mercatino dell'usata. Mi guarda, ti ho mandato la foto, guarda l'aborto che sto usando adesso. Già l'ho visto, sì. Come fa a funzionare? Esce, ma quanti anni ha già quel baracchino? No, guarda che produzione è... è nuovo, mi, di qualche anno fa, di qualche anno fa, adesso in catalogo non c'è, però è un baracchino con l'altoparlante frontale e va bene in macchina, capito? Perché l'altoparlante frontale sente anche meglio. Adesso c'ha volume, squeggi, i tastini per i canali, poi varie piccole funzioni, MFM, emergenza, ANL e il beep, che adesso ho tolto. È bellino esteticamente, ma lo smitti dov'è? Lo smitti dov'è? Lo smitter, non c'è. Ah, non è la smitter. Ho capito. È bellino esteticamente, è un baracchinetto abbastanza. No, pensavo che era di vecchia data, invece si vede che è nuovo, di ultima generazione. È omologato, perciò lo metto in macchina. Capito? Vabbè, il microfono, se metto questo, non è più omologato. Sai, piccolo, cioè se rubano questo, pazienza, ma se rubano il 3009 sì che lo piango. 3009, non c'è niente da fare. Quelli sono bei baracchi da mantenere sempre. Superstar è veramente in gamba, per la 27 è un bel apparecchio, ma tutte le versioni. È cominciare dal 360 al 3600 al 3900 e così via, sono tutti uno meglio dell'altro, sempre sono stati così. Il più grosso è Superstar, è il 7000DX, quello ce l'ha Mario Babbo Natale, ed è riuscito a prenderglielo e poi l'ha rivoluto indietro, la matta nelle varie, bellarella è 50 watt, la versione da 50 watt, Giulio, ma sarà un po' pompa quella radio. Quella che ce l'ho avuto io, ce l'ho avuto almeno 30 anni fa quello, mi sembra che mi è rimasto ancora il libretto di istruzione, ecco. Bella, una bella bestia, è simile al Magnum, al Cobra, quello grande come c'ho io, sì, una bella radio, 7000DX, la versione da 50 watt, c'è un bel dissipatore, tanti canali, un bello smitter, un bel baracchino, veramente. Una bella macchinetta da combattimento. Vai Antonio, riprendi. Noi ce ne sono parecchi da combattimento a luglio, quindi anche vecchi modelli, tipo Leghe in quinto, l'MS200, quelli li pompavano. Ehi, vabbè, Leghe in quinto l'ho avuto, il Consoli 1, il Consoli 2, tutte radio, vabbè, che hanno poca potenza, però se parliamo di radio con potenza, sono quelle, capito? 7000 DX, il Cobra, il GTL 200, il Magnum, quelli sono già baracchini che ti possono dare soddisfazione perché non hai bisogno di lineare, non hai bisogno di niente, capito? Metti la potenza minima, 25 watt e arrivi in capo al mondo. Ma i baracchini, quelli a 4 watt, quelli in base ci avevo io, non ce n'era uno che dava più di 5 watt, tutti così erano, la massa nelle varie. Sì, io lo so. FM506, quelli già erano per l'eccezione, ma può capitare, non si potevano attaccare in casa. No, ho detto, io ho provato la RAN 48, Antonè. Ha detto, ma lo fumo si è fatto, il baracchino. Non riceveva nulla, muto completamente. Girando, ci ritorno il canale 20. Completamente muto era. Muto proprio. QRM0. Capito? QRM0. Infatti ne ho già attaccato subito, perché non fa. Basta ci sia qualcuno, un altro canale, giustamente, a fare due chiacchiere con qualche un altro, io sono qua e non sento un accidente. La 48 è micidiale per gli splat, mamma mia, bellissimo baracchino per la macchina, ma da mantenere, da mettere a casa è un disastro. Ah Marco, a trombone la 48, sì. Perciò io metto il 3009. Il 3009 è il più silenzioso, e ti dirò che macchina è più silenzioso anche del Intel HKR 5005, del CRT 7009 e del CRT 9009. È il più silenzioso, c'è poco da fare. Poi gli metti la NL in macchina, mi trovo molto molto bene. AMI 7000DX, eccolo qua, caspita che bello. Io ti ricordi che ti avevo detto che era uguale al Polmar Oregon? Invece non è uguale, la circuitazione c'è un bel di roba in più, è un mostriciato. Bello è, io ti ripeto, l'ho avuto e va bene, un bel baracchino, una bella radio, si può già chiamare radio perché pare faccia da 20... più sotto di 26 va, più sotto di 26, quando, quasi in bande VARC, 25 è qualcosa, sino a 32 mi pare, no Giulio? Sì, in effetti è così, sì, da 25 sino a 32, 31 è qualcosa, là, quasi a 32, sì, un bel apparecchio veramente, è quello mi è rimasto nel cuore. Ce l'avevo io su più di 30 anni, forse anche 35, che è un gran bel apparecchio veramente. Ma cosa, stavo guardando, o meglio, l'ho già guardato di nuovo il video che mi avevi mandato, guarda che tu sei in una bella posizione lì. Per il semplice motivo che sei in alto, vanno tutti i tetti. Però li vedi i palazzi più alti, no? Quei palazzi che sono pari o più alti, quella è la zona verso l'Italia, cioè io la zona dell'Italia ce l'ho più coperta, non c'è niente da fare. Pensa fino a Prudicetta Alta, io sono molto coperto per l'Italia, purtroppo sono aperto per la Spagna, proprio quella che non mi interessa. Una bella visione c'era, una bella visuale c'era da sopra quel terrazzo, si vedono quasi tutti i tetti, eccetto qualche palazzo che magari è un po' più alto, quello per la sessantesima del tuo. Sì, bella zona, veramente. Avanti qua. Sì, ma infatti gli ho sempre detto, qua c'è un segnalone, Marco, allucinante, fa 9.30 passato, perché il segnale è più alto che mi arriva dalla zona di giù, capito? Evidentemente ci vediamo a vista ottica, però hai una buona zona, Marco, davvero, è una buona zona. Vedo, anche perché quando hai la potenza un po' più del normale arrivi molto bene a tutte le parti, chiaro che con 4 watt non è che si possa pretendere tanto, capito? Avanti Antonio. Ehi, buongiorno a voi, Marco, a voi. Cosa è stato? Dall'altra parte, nella parte di dove c'era la fonte, non si è arrivato lì e c'è tutta la zona della costa del... si vede la ginnastica, sembra di essere proprio vicino al porto, passando lì. Ma anche quella lì è, come zona è bella, si vede tutto il male, si vede tutto, ma vedi se lì in alto, e sotto c'è il posto. Ma dove, in che zona stai parlando? In quella zona di Azzara, quella roba lì, mi ricordo che faceva la ruota, la serie è arrivato lì, lì, se tu guardi verso il basso per andare andare a San Francesco, in parte mi pare che, o un capo si chiama, quando verso il basso si vede tutto il mare, si vede, c'è una bella visuale, c'è tutta la costa, si vede, l'Asinaro, roba genere, si vede proprio chiara chiara, se ti guardate è una cosa allucinante, è proprio chiara chiara, sembra che ce l'hai davanti. Lo so. Va bene, le zone sono quelle, non c'è niente da fare. Avanti Giulio, riprendi. Ok. Stavo leggendo i sottotitoli sul canale 2, sul canale Rai, che il Giro d'Italia, il prossimo Giro d'Italia parte da Gerusalemme, per 4 maggio mi sembra di aver detto. Ai mondiali non c'è né Nibali, che lo dovevo fare adesso in questi giorni, né Nibali né Aru, Nibali perché Caruso si è fatto male, e Aru perché non è una tappa data a lui, è quello che ha deciso il commissario tecnico del ciclismo, Opla. Se prendi tu vai, poi fai girare per Marco. Quindi siamo esclusi, così è. Sì, Marco, lo conosco, la mia era un colore diverso, però mi pare che fosse così. Quindi noi siamo esclusi, dai, ho capito. Già va bene. Andavè. Ok, vai Marco. Sì, comunque grosso modo la forma è del Polmar Oregon, però in più al centro ha quel frequenzimetro lì, poi ha più potenza, più tutto, è bella radio all'epoca, certo che, cioè io ero piccolo, non potevo mettere le mani in saccoccia, se no me, se avessi avuto la tua età all'epoca, mamma mia, è in quinto, LMS 200, Maiorecco, Super 7000, mi sarei rovinato, guarda. Ma io ti devo dire che baracchini ne ho avuto tanti, però di buona stazza, nel senso baracchini buoni, insomma, con potenza abbastanza elevata. Però poi quando ho iniziato a avere il Kenwood ho comprato attraverso il primo 430 da Mario, ho usato sempre quelli nella 27, sempre. Qualche volta avevo comprato anche lo Yaesu, il 757, la prima serie, avevo usato quello, però come modulazione non mi piaceva. Quando avevo scoperto la modulazione del K ho sempre usato quello, quindi è tanti anni che non uso baracchini. E un po' queste due settimane ci stiamo divertendo con i baracchini, se no non ne avevo mai usato, ho capito Marco. Avanti Giulio. Ok, in quel periodo ce n'erano belli, oggi c'è tutto un altro discorso, oggi non è che ci hanno butti i baracchini, però intanto io sono sempre stato amante dei baracchini grandi, non di questi piccolini compatti come quelli di oggi, a me mi sono sempre piaciuti i baracchini grandi, per cui tipo il Constant, che tra l'altro ce l'ho 25, chissà se funziona ancora, adesso una lista sta usando, quello bavolare, poi c'era anche il 35B e tanti altri, perché ho parecchi grandi, quindi il 35B illuminato era meraviglioso, il Twitter specialmente, era bellissimo, ma come potenza siamo sempre rimasti a basse potenze, perlomeno qui quell'apparecchio lì, a 5 watt massimo, non di più. Pensa che l'avevo con Tokai, quello piccolino da 6 canali, avevo dato un abbattosto una volta, da ITVN avevo chiesto il controllo, con l'abbattosto a Ora Zeno, e al fratello, lui convinto che era questo, però poco e gli avevo mangiato la pasta asciutta dalla testa. Anche io l'ho avuto il Contat 25B, il 35B, ho avuto il Tenco 46 canali, ma ero portatore a casa di mamma. Poi questi barragioni mi erano scesi un po' veramente. E avevo comprato quello che praticamente eri tu, la faietta KB23 col Tarnes più 2 da tavolo, da Pintus e Scarpa, in via Cavour. Tu conta quanti anni ha quel baracchino, io ho modulato a casa di mia madre una vita da ragazzino, perché avevo 14 anni quando sono entrato in radio dal 1974 e praticamente me lo sono portato sempre appresso e ha sempre funzionato. Quel baracchino non ha una riparazione, Giulio, una riparazione non ce l'ha. Ok, funziona anche adesso. Che adesso che ce l'ho io funziona, altro che glielo chiedo, è sempre conservato, fate questo qua, che state sempre togliendo, anche perché ho un tavolino piccolino qua, io ce l'ho durante la notte, non puoi immaginare la stazione, non è che posso allargarmi, per cui non li sto più usando, sto usando di solito sempre questi qui davanti, ne ho tre qui davanti e basta, ma niente di più. Se no togliere tutto, ne ho 12 in tutto, ti puoi immaginare. Ui, tocca andare, ballare, pure di mettere a posto, un abbraccio, dai, no, non va bene, anche se mi rendo conto che sarebbe bello utilizzarli tutti, ma come fai? Ui, mi sono stancato, prima già lo facevo, ma adesso sono da un po' di tempo che non l'ho più fatto, sono sempre con questi qui, questo tavolinetto, a niente. Va bene, dai, avanti Marco. Io l'avevo visto la KB23 forse a vela 3 secoli fa, ma sbaglio, è tutto quarzato, cioè c'ha il coppia di quarzi per ogni canale, giusto? 23 canali più il 22 alfa mi sembra, l'11 alfa o Giulio, adesso non me lo ricordo più. C'ha la manopola centrale, la rotola di balle che è praticamente il pomello del VFO per il cambio canali, è piccolo e quindi è un po' duretto da tenere. Cosa c'ha, l'11 alfa o il 22 alfa? Se vuoi dire la verità non me lo ricordo nemmeno io, forse l'11, non me lo ricordo, se sono stato il tempo che è stato usato qua, non me lo ricordo più qua. E io mi sento il fenomeno da somma il campo, e poi il garage 2, ma chi mi sta più usando? Non lo sto più usando. Senti il fenomeno della somma il campo, quello è bello lo stesso, quello fa da 25 sino a 31 o qualcosa. Quello che è Eugenio mi con tutto, però è complicatissimo nell'elettrolizzarlo, se non lo usi continuamente ti dimentichi tutte le funzioni e ci prendi la testa. Lo so, ma io qua, se tu senti a Gigi, non so se l'ascolto, lo fregavo, ti attaccavo la faietta KB23 col Tarnes più 3 da tavolo, lui non si accorgeva se stavo usando il 440, se stavo usando niente, non si accorgeva di niente. Una modulazione, Marco, strepitosa, fortissima, bella corposa, no? Proprio, sai, il Tarnes più 3 c'ha la caratteristica dell'acuto, però modulandoci io non le davo questa tonalità medio-bassa, ma era una cosa favolosa. Però poi gli dicevo, ma non ci credo, ti sto dicendo che sto usando la KB23 col Tarnes più 3, era una cosa allucinante, ma sai quanto usciva forte con la radio, ed esce ancora forte. Se tu lì, Giulio, riattacchi il Tarnes più 3 da tavolo, o anche l'MB più 4, più 5, un microfono preamplificato qualsiasi, siccome pompa un becco la radio, c'ha un Mickey Game micidiale, nonostante non abbia niente, perché c'ha lo squelch, il volume, il cambio canali, Marco, è semplicissimo, non ha nulla, però va molto bene di Mickey Game, come il Tokai 5024, ti spinge un bel, capito? Ma questa radio che era una cosa strepitosa. Eia, ma ripeto, vi ricordate se era quarzi? Perché mi pare che con Vela 3, mi sembrava ricordare questo HB23, no? La Fayette. L'aveva aperto e si vedeva una lunga fila di quarzi. È possibile? Ehi, ha quarzato dal canale 1 al canale 23, compreso, adesso non mi ricordo, il 22 o alfa o l'11 alfa, non me lo ricordo. Ehi, aspetta, sì, perché prima erano quarzati, poi hanno fatto il PLL, che da un quarzo faceva, sintetizzava tutti i canali, no, mi pare. Un po' io ci sei ancora? No, qua perché braccio non mi ricordo bene, non volevo dire la stessa. Mi sembra che dall'1 al 22 è il terzo e il 23esimo canale, che è proprio il canale alfa. Mi ricordo che è così, come il 50-24 praticamente del toccare. Mi sembra che è così, adesso non voglio sbagliare, ma mi sembra di ricordare così qua. Hai ragione, come il toccare 5-24 che non ha il canale 23, sì, 11 alfa c'è allora, c'è l'11 alfa e arriva sino al 22 praticamente. Sì, mi ricordo che è così, adesso non voglio dire una stupidaggine, però mi ricordo così, ma bisogna che ritorno fuori un pochino, anche per ripensare a mia moglie, perché sinceramente non me lo ricordo nemmeno più le marche, del baracchino, figurati un po'. E tutto lavoro, non è più voglia di stare lì, aprendo il cartolone, togliendo, che poi quando lo rimetto, lo metto tutti in ordine, tutti a posto, ognuno col suo microfono. A proposito, quando ce l'ha mi avrebbe dato un microfono manuale amplificato, proprio quello con un volto e mezzo di batteria. Esatto, ce l'ha il microfono, ce l'ha il microfono, e poi le potevi attaccare anche quel microfono che ti è volato, quello che si è rotto la tastiera, qua si è rotto il pulsante. Allora, la pulsantiera, cioè il commutatore, come lo vogliamo chiamare, peccato quello, vabbè, pazienza, non ci vuol fare. Ma io penso che vada molto bene anche questo salienta installato su quell'apparecchio, perché hanno sempre le caratteristiche dei vecchi apparecchi, e dunque questo dovrebbe andare molto ma molto bene, praticamente simile all'altare più 3, dovrebbe andare bene ugualmente questo salienta che ho adesso, che sto usando in questo momento. Una cannonata in saletta, una cannonata con la KB23. Io non lo usavo con saletta, ti ricordi? Con saletta il tane più 3, ma usciva come il 440, così come questo che sto uscendo adesso. Uguale, preciso, identico, aveva una modulazione favolosa, veramente molto molto bella, Giulio. Sì, ma non lo ricordo. Oppure il patch 123, mamma mia! Come colpe ne prendeva tantissimo, ma usciva così forte che era una meraviglia, veramente, guarda. Il patch 123 mi sembra che si chiama, è una cosa del genere. Anche quello. Sì, i patch hanno fatto 123, 123A, che gli avevano inserito qualcosa in più, li avevo avuti anch'io quelli. Però quando io poi ho usato, perché allora vabbè, produttore, se, non mi ricordo che canale usavamo, voi se usavamo il 12 o che cosa, però quando io ho usato come baracchino la KB23 con microfono preamplificato, non ne ho comprato più di baracchini, sino a quando poi non sono arrivato a Sassari nell'83, nell'85 avevo comprato il primo 430. Il 430 l'avevo comprato da Mario Nottari assieme a Marco 131, ma era, guarda, quel baracchino me lo sono tenuto proprio veramente col cuore, perché era un baracchino veramente eccezionale e mi dava delle ottime soddisfazioni. Io allora c'avevo come linea retro, c'avevo uno Speedy di quelli piccolini, mi pare dava una cinquantina di watt, una valvola, uno dei primi che era uscito, e quando l'attaccavo c'era cosa, allora Tore Burroni, che avevamo vicino, che poi è diventato l'elevatore, ma mi dice, ma è possibile ogni volta che accendo il baracchino, perché lui parlava spesso anche al baracchino, al produttore, se prima di diventare l'elevatore, GT2 e Manola era la moglie, ma sempre mi arronzava, ma lo vuoi spegnere questo lineare che mi stai ammazzando? Eravamo proprio a 50 metri uno dall'altro, ma roba dei goi, se no capito, carciofo non pigliava il gol. Gesù Maria, cara, che splatterava, era una cosa impressionante, impressionante, proprio come il pace 123, ma chi non mini Cuniani di Goipi, mamma mia, come sto. Sto rientrato, Noi Tattani. Sono da Cogenza, devo sospendere. Cause di forza maggiore. L'avevamo capito, l'ha detto Marco, ha detto sicuramente è arrivata gente all'improvviso e Natalino ha dovuto staccare perché avendo tutto a vista lì è un casino parlare. Riprendi, c'è Giulio, Marco, Antonello oppure c'è, vai. Salutoni a tutti, dai, non vi ho sentito acceso adesso. C'è Giulio e forse Pomponio se non ha chiuso, ma credo che abbia chiuso. Claudio, guarda le due versioni della manopola a canali, è lo stesso apparecchio. Caro Natalino, a pesca non vai allora, perché sennò saresti già andato, no? Non sono venuti, hanno visto il tempo, ma glielo ho detto io, quando sono venuti a Cremigli per vento, cosa andiamo a fare? Marco, è la versione quello di sopra, capito? La versione è quello di sopra, con il manopolone così illuminato, capito? E si vede, sì, l'11 alfa, KK. Il problema era vedere lo smitter, mamma mia, preciso mi Giulio quello smitter, ma così piccolino che è un casino. È lo stesso smitter del Pony sei canali. Esatto. Sì, è vero, infatti ci vuole la lente di gradimento. Per me ci vuole la lente di gradimento. Vabbè, è tanto zincane, va, cosa ci vuoi fare qua? Purtroppo ci consuma anche la vista con gli anni. No, io non lo vedo manco da vicinetto, visto Smitter, figurati tu. Infatti vanno a chiedere, come sto arrivando? Santiago Rofe, a tutti Santiago Rofe, da qui. 5-9. Sì, vabbè, c'è stato la risposta, no? Ui. E poi andata via, allora, sei uscito fuori dal guscio. Non potevo parlare, ho dovuto spegnere perché è venuta gente qua. No, che ti fa vita, come ti va a fa vita? Tu è anche maleducazione che io mi metto a parlare con voi quando c'è mia moglie sta parlando con un'altra gente. Ok. A proposito, ditemi, ma non è che è troppo forte il microfono come lo sto usando? Non ne può bastare? No, io ti sento bene. La radio è buona, dai. Non è troppo forte. Vabbè, no, vorrei che mi successe un pochino, insomma, dai. Quando comincia a tirare su, è quasi a metà, lo slider qui è quasi a metà, per cui, mentre invece quello dell'Ecco, lì sono a zero completo, chiuso. Faccialo così che va benissimo, alla grande. Comunque Claudio, io ho conosciuto sempre la versione con la, come hai detto tu, con la rotella a vista, è più bella secondo me. Sì, io quella avevo visto, ora in vetrina la Pintus Scarpa, avevo visto quella io, quella versione che mi hai fatto vedere tu non l'ho mai vista, io quella lì ho visto e avevo comprato quella. Ma guarda, fenomenale, baracchinetto, però ti consentiva di parlare tranquillo, senza problemi, baracchinetto, insomma, 23 canali, come abbiamo iniziato tutti, dai. Ho avuto anche il Pony 6 canali io, col parlo ascolta dal microfono, mamma mia, ogni eccesso di baracchino. L'ho avuto anch'io, ce l'ho tuttora. Però mi pare che altri sono stati cannibalizzati. E poi prima funzionava qualche anno fa, adesso ha fatto un difetto e purtroppo non fa nemmeno a regalare. A meno che la persona non trovi qua, sia cosa molto difficile, che non è a posto. Non so manco più dove venite. Elia KB23, molti lo nominavano e molti ti dirò che lo lodavano all'epoca. Avete parlato in due con Giulio? No, ma io l'ho tenuto sempre a casa, poi l'ho dato a Giulio perché Angela Giulio per un semplice motivo, e anche perché lui questo dice le cose in una maniera eccezionale, e quindi ce l'ha lui, ma altrimenti non l'avrei dato a nessuno proprio, nessuno, capito? Perché è un baracchino che funziona. Io prima della Giulio lo stavo usando, ti ripeto, ci avevo attaccato il Salenta e poi lo alternavo col TNP3, quello grigio, quello proprio originale, ma usciva che era una cannonata, e a volte parlando con Gigi usavo quello e non se ne accorgeva che stavo usando quel baracchino, non se ne accorgeva, talmente usciva bene. Cosa hai detto giù? Sì, no, uno di questi giorni lo tiro fuori quello lì, lo salgo su, lo prendo e lo faccio risentire, così la curiosità di mettere in funzione di nuovo, così vediamo, già funziona sempre. Non si guastano, sempre che non si guastano qua, perché quando hanno l'alimentazione a 12 volt, le apparecchiature, i condensatori non si spaccano mai, è difficilissimo, ma molto molto difficile, si spaccano i condensatori delle apparecchiature che sono alimentate a 220 volt, perché? Perché hanno il condensatore di filtro nell'ingresso praticamente, subito dopo il ponte dei dioni, ma quando è a 12 volt non è un problema, quando è alimentato a 220 invece il problema esiste, si spacca il condensatore, magari può anche funzionare, però ronza alternata alla grande, li prendi. Sì, si conferma, infatti il Tenco 46T che ci avevo io ronzava, dopo un po' di tempo ronzava, anche il 25B lo stesso ronzava, KK, e comunque, no, fammelo sentire, davvero, sono curioso, perché ti ripeto, se tu le colleghi, intanto l'attacco è quello, se tu le colleghi il Salenta, stai pur certo che quel baracchino... vedrai tu che esce come quando esci col K, guarda. Sicuramente c'è una potenza di radio allucinante quel baracchino, veramente, quando lo colleghi, che lo provi, chiamami se non ti rispondo, che voglio sentirlo, guarda, voglio sentirlo. Avanti Natali, riprendi. Sì, mi deve aprire. HK23, c'era una bomba io. Con qualsiasi microfono lo mettevo, lui pompava, che era una bellezza. C'aveva, e poi c'ha anche, mi pare, quasi 5 watt c'ha quel baracchino, Giulio. Quasi 5 watt c'ha. Forse anche di più. E io non l'ho mai toccato, non ho capito perché, mai. Non so manco come è fatto dentro, figurati. Avanti, Antonè, ci sei ancora, se non riprendi tu, Marco. Ascolta, ma tu gli avevi messo la presa a quattro poli? Perché a quanto vedo la spina è di quella pressione, o sbaglio? Sì, me l'avevo fatto modificare, perché ogni volta che tiravo il microfono me ne usciva. E se ti dico che mi ha modificato quel baracchino, non so se tu l'hai conosciuto, Giulio sì. Ti ricordi che c'era in via Galileo Galilei, Giulio? Certo, non mi ricordo, Panzer c'era. Visto? Pensavo, vediamo quello. Era bravissimo, quello lì per le apparecchiature, dice trasmissioni, era bravissimo. Io penso, secondo me, io ho sempre pensato che era più bello, più bravo di Betaverde, secondo me, poi, scusate che mi sto sbagliando, ma per me era più bravo come operaio di Betaverde, ti ricordi Betaverde? Il Viale San Francesco, Occi di Buco. Sì, ma neanche a paragone. Sì, quello me l'aveva modificato Panzer, perché ogni volta tiravo e me ne usciva il microfono, mi si staccava. Allora c'ero andato, ho detto, guarda, non è che si può fare una modifica, sì, c'è certo, perché no? Si mette il connettore a ghiera, il semplice connettore a 4, e una volta che avviti il microfono non vai più da nessuna parte. Soprattutto quando lo mettevo in macchina, allora lo mettevo in macchina col baracchino anche, Marco, capito? E quindi l'avevo fatto modificare da Panzer ed è rimasto sempre così, Marco. Panzer, mamma mia, mai sentito, ma deve essere della vecchia guardia proprio. E qualche nome di persona, com'era? Come si chiamava giù? Vittorio, no? Non me lo ricordo più qua, sì. Senti, sotto braccio, è morto già una ventina d'anni, come minimo. Non me lo ricordo più, ma lo conoscevo molto bene. Anzi, dalla volta ci andavo, quando passavo in Nicola, entravo anche a salutarlo, e lui era anche contento. Mi stringeva la mano tranquillamente, era in gamba, una bravissima persona, veramente. Sai che ritardo era? Sì, c'era il laboratorio Marco in via Galeo Galeco a Sassari. Io quando sono arrivato tramite gli altri CB, capito, me l'avevano detto, non sono arrivato a Sassari, e c'era Coso, quello di Viale San Francesco, che però era sì, bravino, ma vogliamo mettere un batticcione, la verità. C'avevo questo garage, aggiustava molto più televisori che baracchini, poi c'era dato anche i baracchini. E... mentre invece poi ero andato lì da Panzer e me l'avevo fatto modificare il connettore. Per il pulisce i canali, Marco, a me mi aveva fatto anche la modifica per non avere il parlascolto dal microfono, capito? Mi aveva messo un altoparlante esterno. Oh, vabbè, buono. Perché sai, era un po' vile quel parlascolta, mamma mia. Eppure funzionava, io mi ricordo quello che avevo io finché funzionava, certo magari poi c'è un po' masina, quello che vuoi. E io, insomma, bravino era, dai, bravino. E io, è passato tempo, caspita, si è morto da più di 20 anni. Poi io sono entrato nell'84, tu nel 74, quindi tutti quelli che c'erano prima dell'84, che poi sono andati via, io non li ho mai conosciuti, mai. Io la mia concessione, la casa di mamma, avevo 14 anni ed è 1974 e a Porto Torres c'era un bel di gente, un bel, capito, 1974, e nella concessione ho proprio la Faietta KB23, la prima concessione, quella con disciplinare attaccato, capito, sempre quella. Poi quando era uscito l'Alan 48 avevo fatto la concessione con l'Alan 48, che ce l'ho ancora in concessione, il baracchino è qua, capito? Perciò nel 1974 più o meno abbiamo gli stessi anni di modulazione con Giulio, no? Eh beh sì, io nel 72, febbraio del 72 sono entrato, però da pirata, perché ancora la concessione non esisteva. Mi ricordo, andavamo in giro con la buona anima di Tore, alla Verde, e i cognati anche, tutti e due, tante volte, Bruno e Aldo, e a tanti altri. Mi ricordo una volta lì, in piazza del Trametto, c'era uno che parlava male a Baracchino, che lo prendeva tutti, siamo andati in giro di notte a cercarlo, sto qua. Avevo una buona antenna, io perlomeno avevo un'antenna che all'occhiare della radio, l'avevo allungata un pochino per fare la frequenza del baracchino. Lui ci vedeva da tutti quanti attorno alla macchina, ci prendeva in giro e noi non l'abbiamo mai visto, chissà chi era quello, parlava male in una maniera impressionante. Lo so Giulio, però infatti anch'io, se adesso mi ricordo se era uscita nel 74, la concessione nel 75, sta fatto anch'io per qualche periodo ho modulato senza concessione, poi siccome ero minorenne, mamma mi aveva dato l'ok, nulla osta eccetera, e la mia concessione comunque avrebbe essere dal 74 al 75, però io sono entrato in quel periodo lì, inizio 1974. Sì Marco, quell'era che c'eri tu, io ero già a Sassari, ero appena arrivato ed era il boom del casotto con il mitico Paoletto, capito? Tutto lì. Avanti Marco, riprendi. Eia, guarda, che io ricordi le hanno fatte nel 74 le prime però quello dico colonnevo, le prime concessioni, 73 no, penso che si stesse muovendo qualcosa a livello legislativo, però le prime era 74. Giulio, niente ti ricordi? Sì, mi ricordo benissimo. Allora, la legge è stata approvata nel 73, è stata approvata, però diciamo che tutti quanti ci abbiamo fatto la concessione, perché prima eravamo tutti pirati, tutti indistintamente, nel 74, per cui a me allora me l'aveva scritta la concessione, anzi non solo a me, quasi a tutti mi faceva coso, quello che lavorava in ferrovia, che parlava sempre con la verga, ma non me lo ricordo come si chiama, quello manziano, claro, non me lo ricordo più, il padre di anche almeno lui mi ricordo il nome. Vabbè, già mi viene in mente, non lo dico, piena. Macalè, ecco, adesso me lo sono ricordato. Aveva fatto lui la cosa, la domandina per la concessione, qua. Ehi, Macalè, l'ho conosciuto. Sì, beh, quel periodo lì anch'io uscivo molto con Tore. Quando sono arrivato a Sassari, in quegli anni lì, nell'85, così, 86. Poi a Porto Torres noi c'eravamo la sezione, che era Club Onda del Golfo, dove adesso c'è Radio del Golfo, praticamente via Petrarca. Presidente era Francesco Brancaleone, vicepresidente era Corsaro Nero, poi c'era il segretario Ernesto Toccai. E guarda, ce n'era un bel di gente a Porto Torres, ma un bel. Poi animulla tutti, qualcuno è morto, come Vincenzo, il Fino Bianco, Primo La Rossa, vabbè, c'era Fortunato Affetta che ancora già è vivo, ce n'era un bel, mamma mia, ma un bel di gente, mio Marco c'era a Porto Torres quando abitavo a casa di mamma, un bel. Pensa che molte persone non hanno mai gustato questo, non l'hanno mai conosciuto, perché fosse pieno e dappertutto, non l'hanno mai conosciuto certi costumi. Invece io ringrazio mamma che mi ha messo in testa questa idea di portateli per la 27, no? Innanzitutto l'avevamo fatto per parlare tra di noi, no? Se non che poi abbiamo sentito queste voci, a me è capitato Paoletto, no? A mamma sai chi le è capitato? Appena entrata, Gavino Dinamite, un'altra bocca di scandalo. E poi quando ho sentito che c'era una donna nuova, tutti sul canale, Vela 3, tutti quelli là. Vela 3, sì, sto riprendendo io. Vela 3, io te lo ricordo. Speriamo che si sia ripreso, perché avevo sentito che stava molto male. Infatti lo accompagnavo il figlio lo accompagnava sempre lì a Olzano per la riabilitazione, poverino. Se ho un sacco di tempo, non lo vedremo continuamente. Perché veniva anche da me Giuseppe Vela 3 per me. E gli davo la legna per la stufa, gli davo allora. Poi ultimamente, è già parecchi mesi, sarà forse più di un anno anche, il figlio, non Antonio, no, l'altro, mi aveva detto che aveva avuto un problema, forse un ictus o qualcosa del genere, e lo accompagnava sempre lì a Oristano per fare una riabilitazione in quell'ospedale che c'è di riabilitazione a Oristano qua. Ma il Vela 3 che dico io ha solo un figlio di nome Ivan e la figlia di nome Simona. Forse stiamo parlando di due persone diverse. Vabbè, il vero Vela 3, l'originale, era quello. Allora, vabbè, c'era Vela 1, Vela 2, Vela 3. Io sto parlando di Vela 3, quello che lavorava al Policlinico in Viale Italia. Già è lui. Già è lui, Giulia, già lo conosce Giuseppe, abitava in via Napoli prima. Appunto, è quello, io mi ricordo, lo conosco benissimo, ripeto, veniva sempre da me, veniva anche Antonio Reserva, non ho più sentito, anzi ogni tanto... Via Marsiglia era. Adesso non ho più, mi chiamato... Sì, da via Napoli pure. Ma quando lavoravo Antonio veniva in Montella a salutarmi, intanto, va bene, poi mi aveva comunicato il posto fisso che avevano dato alla moglie e sono rimasto molto contento perché Va bene, va bene. Ma c'è la tarina, la tarina. E non vi posso parlare sopra, no? Già sono qui sempre, non c'è problema. Ok, dici qualcosa che tu dai. Togli fuori qualche vecchio ricordo. Ad esempio, come si chiamava? Ti ricordi Costantino Parra, quello che vendeva baracchini, eccetera, in via Principessa Maria? Nell'angolo opposto, a Costantino Parra, c'era un tecnico di baracchini stesso. Non mi ricordo come si chiamava, Costantino, lo ricordi? No, negativo, conosco il posto e tutto, però non mi ricordo quel tecnico lì. E anche lui lo urlava, tra l'altro, e vabbè, non me lo ricordo io, vabbè, fa niente. Ti prendi qua? Sto facendo memoria, perché anche lì sono andato io, sto facendo memoria ma non mi ricordo come si chiama. Acci picchiacci. No vabbè, ma in quel periodo io ero sempre a casa di Bartolomeo Chisiele, ero sempre lampato in chivi, esce di agagino fasiami, mamma mia, mamma mia. E Marco, sì vabbè, la via Massilia, però io il riferimento era sempre via Napoli. Tu figurati che ero fidanzato con mia moglie, sono 35 anni sposato, infatti lo conto, ero fidanzato quando andavo a casa di Giuseppe. Ivan era piccolino e Simona era piccolina, proprio piccolini, capite? Quindi ero sempre in chivi, lampato baricconetti, come si suol dire. C'avevo il baracchino in macchina, quindi quando salivo a prendere a mia moglie, la prima dappera era Giuseppe. E ce n'ha un po' anche lì. Mai sono andato via da Sassari senza cenare, figurati. Insomma, tornavi a casa già mangiato, dai. Come dicono qua, già mangiato. Sì, perché andavamo a trovare Giuseppe, noi stavamo in giro in macchina, così oppure ci fermavamo a Piazza Lessini con mia moglie, capito? E noi stavamo al baracchino, io vado, sì, sali, vieni a casa, salivo a casa, ed ho tazia anche il sgabuzzino, che paria una ghea, una riminea, paria che il sgabuzzino, Santa Maria Madre Nostra. Vedi, Giuseppe in quel periodo aveva il superstar, mi sembra che avesse il superstar. Chi se lo ricorda? Sono passati tanti anni. Magari anche più di uno ne aveva dei baracchini. Mamma mia. Caspita, nell'84, mi sembra. È passata una vita, mio, una vita è passata. Te l'ho detto, abbiamo iniziato nei portatili, abbiamo sentito gente, insomma. Allora siamo andati dopo pochi giorni da Adriano il vecchio, quello via Umberto parte alta, no? Che veniva a baracchini eccetera. Abbiamo comprato una Grand Plane perché il nostro portatile aveva l'ingresso antenna con l'attacco SMA, e quindi abbiamo messo una Grand Plane, una Sigma GPVR con un RG58 bianco, avevamo preso bianco non so perché, quello ci aveva e quello abbiamo preso, e poi l'adattatore da PL a RCA, era un attacco RCA, ecco esattamente. Come abbiamo attaccato l'antenna abbiamo sentito il mondo, cioè in portatile sentivi relativamente, ma poi con l'antenna esterna sentivi anche il QRM e da lì. Allora Marco Mandingo aveva un apparecchio da Mario Riparazione, uno XTAL 23 canali della vecchia guardia, che aveva una modulazione favolosa, forte e limpida, e ce l'aveva regalato lui, cioè ha detto vi pagate la riparazione, 30 euro e ve lo tenete. L'apparecchio era favoloso, ma faceva un DVI formidabile. Da Viale Mameli disturbavamo tutta via Nizza. Presto Poste ci stava cercando, però era andato qui, che all'epoca era affittato a studenti, perché noi avevamo la residenza qui, ma domiciliati eravamo giù in Viale Mameli, e quindi è venuto a vuoto, capito? Vabbè, il discorso del TVA era un casino, perché allora c'erano televisori di quelli vecchi, insomma. Anch'io a casa di mamma ero sempre in lotta, soprattutto quando attaccavo sto linearetto. C'era Don Fino, che figurati era radioamatore, il 60 DNB. Era radioamatore l'abbonamento di Don Fino, è morto. Prete, parroco della consolata, produttore. E passava, c'aveva un dipolo, c'aveva solo un filare lui, non aveva nessuna antenna. Un filare c'aveva, non so che bande avesse, tiro ragazzino. E passava proprio dal terrazzo di mamma. Mi avevo fatto agganciare io, perché un braccio nella strada e un braccio nel terrazzo di mamma. E quindi quando lui trasmetteva forse 10 metri lo disturbavo. E me lo diceva sempre: che passione che hai, che passione che hai. Infatti, quando poi, perché io sono diventato relatore nel 93, lui mi pare che è morto nel, forse nel 2002-2003, quando poi sono diventato relatore nel 93, che ci siamo visti a Porotone, se gliel'avevo detto, mi ha detto sì, l'ho visto, hai visto, finalmente questa passione te l'hai portata sino all'infinito, mi diceva, e dicevo, speriamo di portarmela sino a quando muoio, perché ero proprio appassionato, da ragazzino. Adriano Cao, tu stai dicendo, Adriano Cao qualcosa ci ho comprato, ma non molto, perché non aveva niente che mi potesse interessare. Io ero molto appassionato di radio grosse, di radio Maduri, da potermi divertire. E Baracchino, ti ripeto, avevo e ho tenuto sempre la KB23, sempre. Altri baracchini poi ne avevo un mare, perché ero diventato anche collezionista quasi di baracchini. C'avevo la casa piena di baracchini, e poi piano piano li ho tutti dati. Una parte li ho dati tutti a Roberto Quadrato, che sono radio insomma abbastanza interessanti, e il resto li avevo dati tutti a Gianni Capri 2. Poi che fine ne abbia fatto fare non lo so. Riprendi, Natali. Cosa riprendo? Tra un po' faccio qualcosa per la cena. Il cane l'ha già portato, mia moglie sa che piove, la gente buca, lo sa che piove, e così almeno è tutto a posto. Infatti non ho manco risposto, sono maleducato. Valessi, se l'ascolto, perdonami. Mi ha mandato un messaggio Valerio che Alghero stava iniziando a piovigginare. Mio, ho sentito un socchetto elettrico, ho sentito. Forse sono i fulmini in lontananza. Sì, già ne stacco tutto subito. Sì, sta tornando, ma sta arrivando ad Alghero come ieri. Dai, io mi allontano un attimo, perdonatemi, ma vado a portare il cane prima che piova davvero. Dai, stava piovigginando, vero? Ero già mio. Sempre la zona alta inizia a piovigginare, mai nella zona di Natalino. Giulio, riprendi, torno subito. Ok, qua, d'accordo. Qui alla fine piove anche qua, che sono più in basso di Sassa neanche, per cui è logico, con tutti in altura è chiaro che piove lì per primo. Vabbè, comunque non ci dobbiamo lamentare, la pioggia già occorre come occorre qua a Sassa, tanta gente che non ha l'acqua nel rubinetto di casa, ma vabbè, comunque. Oi. Avanti Marco. Eia. Poi avevo comprato io, sempre nell'84 e dintorni, 85 anche, da un certo Pantera, un uomo coi baffi, che faceva il meccanico, no? Ci eravamo dati appuntamento, credo, dove lavorava lui, in piazza Stazione, e lui è uscito con la tuta meccanico e mi aveva venduto un Midland 77/824 Pantera, non ricordo il nome proprio, ti risulta Giulio? Pantera, non me lo ricordo, non me lo ricordano, e ne sono passate 5.000 anni di CB a Sassari, nelle zone di Mitrofe, si può immaginare, anche nei paesi ce n'erano, non se ne ricorda più. Comunque dovrei avere io un una specie di brogliaccio, dopo avevo annotato tutti i nominativi di allora, magari sono il medaglio delle vite, eccetera, a casa, chissà se riesco a trovarlo, almeno se non l'ho buttato via mia moglie, non lo so. Ma li avevo avuto, io avevo praticamente uno qualcosa, un quaderno di quelli protocollo, no? E avevo annotato tutti i nomi, ma ce n'era un'infinità, anche tutti i nomi dei diretti che avevo fatto, quanto ne avevo scritto, poi mi sono stancato, non ho fatto più. Col tempo ti stanchi, cosa riesci a fare, cosa le fai a fare queste cose, oh Mac. Ehi, vabbè. Guarda, quando penso che quel Midland, il 77/824, e poi ho avuto anche il Midland 150M, questi Midland non erano altro che i precursori dell'Alan 48. Cioè l'Alan 48 mi pare o non esisteva, magari no, esisteva, però questi apparecchi erano fine anni 70, no? Fine anni 70, ed erano proprio i predecessori. Chi ce li ha? Dice che se li tiene bene come reliquie, io invece li trattavo come cacca, cioè non ne avevo cura, li consideravo come merci così, da uso e consumo. Uno l'avevo venduto a un amico delle medie, che l'ha usato pochi giorni solo per fare, per dire, fesserie, e boh, me ne sono pentito. Ho trovato anche la foto adesso di quell'apparecchio là, era un po' nero con manopole cromate, sopra nero, sotto bianco, tipo argento così, perla, e bellino era come apparecchio, mi piaceva molto di aspetto. Un bene abbiamo passato di apparecchietti, poi vabbè, l'ho omologato l'FM500S, mi pare preso da Cine Radio per la concessione, perché prima avevamo un altro apparecchio per la concessione e poi abbiamo cambiato, abbiamo preso i portatili, avevamo in concessione, poi abbiamo cambiato e abbiamo preso l'altro, quello veicolare, l'FM500S, e poi tanti, anzi io ne avrei voluti molti di più, avevo tutti i baracchini in circolazione, avrei voluti provare bene. L'FM500S ce l'ho avuto anch'io, uno dei primi che ho avuto e che ho anche dato, mi sembra che l'avevo fatta mia forte, se ricordo bene, quello di carbonio. Avevo avuto anche, Marco, il Tony 294, mi sembra, o 92, se ricordo bene la sigla, con la testa, e avevo applicato il VFO, l'avevo fatto diventare a sintonia continua, l'avevo fatto diventare, avevo comprato questo VFO dalla ditta Elf Elettronica, ma sto parlando di 40 anni fa, però anche di più, e l'avevo collegato al transistor oscillatore e prendevo io con quell'apparecchio, prendevo tutte le stazioni del mondo, dalla Russia, dalla Cina, oltre alla CB, prendevo tutte le stazioni del mondo, la notte soprattutto, Marco, era il micidiale quell'apparecchio. Sì, mi ricordo che anche negli anni 80 nominavano spesso i VFO, ma credo di ricordare che si collegasse tipo al posto del quarzo e praticamente non mi ricordo bene, e ti sintetizzava, cioè ti faceva tutti gli altri canali. Sicuramente il tuo faceva anche le bande delle radio AM, nelle varie bande. Ce l'aveva anche un ragazzo, mi ricordo, adesso non mi ricordo più il nome, ma c'aveva un baracchino col VFO e quindi da pochi canali ne faceva tanti. Guarda, sono passati tanti anni e non mi ricordo manco il nome, poi ci avevamo parlato solo per brevissimo tempo. c'era anche un ragazzo che avevamo conosciuto i primi giorni, si chiamava Diodo come nominativo, Diodo, e poveretto c'aveva solo un portatile con un canale, e noi gli avevamo regalato altri due canali, i quarti di due canali, pare il 5 e il 23 se non ricordo male, o giù di lì. E guarda, c'è passato un po' di gente, però altra gente non ha mai conosciuto questo hobby. Io dico che ci sarebbe divertita se l'avesse conosciuto. Eh beh, sicuramente sì. Vabbè. No, io l'avevo fatto fino a 45 canali, mi sembra 48, non ricordo più, perché compravo il quarto, compravo, mi scambiavo con amici e ci andavamo in altri canali, però dovevi cambiare i quarti, allora prima di mettere il WFO, invece i quarti non li ho più utilizzati, avevo i soliti 23 canali e basta. Ma la notte ho fatto tanto di con ascolto, ci prendevo gusto mio, ascoltare la lingua straniera che poi io non capivo l'Occidente, però bastava girare un tantino, aveva la manopola, come può essere il capo che ha la manopola così che c'è la frequenza eccetera. E così era questo WFO. E sintonizzava la notte soprattutto, a una certa ora specialmente, tante di quelle stazioni, tutte probabilmente stazioni a onde corte, che ne so, sono solo onde lunghe addirittura, non lo so, sa solo che li sintonizzava tranquillamente questo WFO. Però, quando tu a poc'anzi hai parlato di interferenza, ma come interferenza, oh yeah! Via! Sento un po' di vento e sicuramente sta per arrivare qualcosa. E cosa volevo dire? Ma adesso non mi ricordo. Io sono a digiuno ancora, Non ho pranzato. Perché sai, mamma mi vede al baracchino, allora non mi dice nulla. Poi quando smetto di parlare mangio, dai. Natalino, riprendi un po' tu. Tu quanti baracchini hai avuto dal... in che anno sei entrato prima di tutto, Natalino? 76. Hai conosciuto ancora più gente, giustamente, perché voi siete più grandi. Beati voi. Beati voi. E con cosa hai iniziato, grosso modo? Tipo, un 23 canali, cioè adesso non mi ricordo neanche la marca. Che me l'aveva fatto avere Franco Calipuri. E all'epoca c'erano tipo il dove mette il fisco, come si chiama? C'era la Fayette HB23, c'era quello che fa il filtro Kai, c'erano gli Elbex, se mi ricordo, che poi erano simili molto ad altre marche, e insomma c'erano tanti. Poi si sono evoluti piano piano, no? Dalle valvole si sono passati agli apparecchi transistorizzati con quarzi, poi è arrivato il PLL e sono spariti anche i quarzi. Giulio, io i quarzi per il portatile li prendevo da Antonio Scarpa, proprio qua vicino, qua a fianco, e li pagavo un canale 10.000 lire di allora, era un bemmi. Sì, no, ma costavano così, 5.000 lire a 4 costavano, almeno di qui io compravo, i vicini compravo, 5.000 lire a 4 se li faceva pagare, sia quelli di trasmissione che quelli di ricezione, perché secondo i baracchini c'erano altri che si sintetizzati, erano direttamente diritti, no? Ci voleva quello di ricezione e quello di trasmissione. E beh, allora in quel periodo i baracchini erano così tutti quant'altri, erano simpatici ugualmente, ma ci siamo divertiti, abbiamo fatto la guerra, e abbiamo fatto con quei baracchini così, molto molto bene, quante ricordi mi vengono, come sono passati, poi eravamo ragazzi, eravamo, oggi siamo vecchi, oggi sono, però ero vecchio, di età, e d'altronde così lo faccio. Quello che mi dispiace è che mi hanno rubato il Tokai 50-24, quello già era bello, era tutto originale, me l'aveva regalato mio fratello da Porto Torres, me l'ha casa da portato e me l'hanno rubato quello lì. In quel periodo non te lo potevi fidare la parete in macchina perché lo pregavano, e se no temi, non erano spezzato poco, per carità. E vabbè, la maraviglia ci si è affettata, e quindi in giro ci sono si affettati. Così autoradio, eccetera. Ma qui hanno avuto anche, mi ricordo, l'autoradio che c'era, anche un baracchino, incorporato tutto in un unico apparecchio. Era bellino lo stesso, e funzionava tranquillamente alla grande. Sì, me lo ricordo. Era bellino lo stesso anche quello, funzionava veramente bene. E vabbè, quando mi sono passato. Io penso che da quando sono in frequenza, senza esagerare, ma ne ho avuto almeno una trentina, tra l'uno e l'altro, una trentina ne avrò avuto. E se non l'inuit mi è arrivato nel cuore, sempre bello quello. Ora avevo comprato la Forza Vestino Fara, mi ha principessa arrivata, era bello, c'era l'orologio, c'era tutto, insomma era bello, bello, molto bello. Poi avevano la Intec, non solo, avevo fatto il telefono a forma, il baracchino a forma di telefono, aveva proprio la cornetta, tu la prendevi, per parlare prendevi il tastino e ricevevi direttamente nell'orecchio, oppure forse potevi selezionare anche l'altoparlante esterno. Sì. Poi nell'inuit avevo applicato il famoso microfono autocostruito in legno, eccetera. E poi ne ho fatto la marea, ne ho fatto per tutti, ne ho fatto. E vabbè, io e Coso anche. La sera, il sabato sera, la domenica, ci univamo con Giancarlo Toccatucca, lo ricordi in Natalia. E facevamo un microfono. Io facevo il legno, lui inizialmente faceva il circuitino, poi ho imparato anch'io a fare il circuito, eccetera, eccetera. Io avevo fatto il baracchino in legno, il microfono in legno, dello stesso modello, identico come il tanne più tre, stesse misure, stesse preciso, non c'era differenza. Io l'avevo fatto in famiglia mia, avevo fatto le prese. Vai Natalia. Io quando dicevo il microfono di tavola, volevo dire a tavolo, no? Ah, te lo ricordo. Beh, certo, se me lo ricordo, altro che. Sì, funzionava bene. Poi l'ultimo che avevo fatto, che avevo intenzione di farlo di nuovo, non ho trovato più il progettino, c'era lo schema elettrico, chissà dove è finito, e allora non l'ho potuto costruire. Però avevo già fatto la base, il microfono l'avevo fatto, e l'ho regalato a quell'amico di Porto Torres, a Franco, di Porto Torres, l'ho regalato, chissà cosa ne avrà fatto lui, se sarà fatto, non lo so. Io dovevo installare magari un altro circuitino, avevo potuto fare, ma quello che avevo fatto era eccezionale, era tipo stare più treni, era esattamente della SBE, era il circuito, lo schema della SBE, era c'è il cane che sta abbaiando il gatto perché non si lascia leccare. Il gatto maniaco hai. Marco. E allora, capito, non si fa leccare, lo abbaia. Aspetta Giulio che ti mando un baracchino. È un americano, un Johnson Messenger, vedi com'è, a proposito di cornette. Va, già è acceso, il telefono già è acceso. A proposito, te l'avevo detto che avevo cambiato gestione del gestore del telefono. Sono passato a Poste Mobile, Marco. Eia, ma il numero è uguale, hai mantenuto il numero, così è? Sì, il numero è quello, sempre quello. E beh, se no te l'avrei già mandato, te l'avrei già scritto tramite WhatsApp. Sì, il numero è rimasto quello. No, perché intanto quindi forse lo prendevo bene. E poi mi ha dato fastidio il fatto che pagavo 10 euro al mese e nel giro di un paio di mesi me l'hanno aumentata a 15. Prima a 10, poi 12, 50 e poi addirittura 15. E allora mi sono scocciato e ho cambiato. Adesso ho fatto il contratto con 7 giga e tanto, non è tutto altro che 4 come avevo prima, 7 giga e pure 1000 telefonate eccetera eccetera, e pago 30 euro ogni 3 mesi pieni, però non 28 come fanno alla Wind, perché alla Wind ogni 28 giorni che significava che a fine anno pagavi una bolletta, cioè una ricarica in più, mentre invece con la forza mobile, ripeto, 30 euro, adesso devo fare la ricarica questa al 12 di dicembre, perché sono pronto, sono attivo sino a quella data lì. Ti è arrivato o il cielo qua sta diventando brutto, eh? Marco, adesso che la cucina mi stava dicendo cosa? Sì, che mi è arrivato, Marco, è arrivato. Adesso lo guardo. Stavo dicendo una cosa. Che non ho seguito quello che stava dicendo, perché ero in cucina parlando con mia moglie. Io stavo dicendo che ho cambiato da Wind, telefono sono passato a Poste Mobile, perché Wind intanto mi dava fastidio che certi forse non prendeva, e poi allo stesso tempo nel giro di un paio di mesi da 10 euro mi sono diventati 15 ogni 28 giorni, invece con Poste Mobile pago 30 euro ogni 3 mesi, 7 giga e 10 euro al mese praticamente mi viene. Ma non ho capito, mi ha dato partire il fatto che nel giro di 2 mesi vanno 5 euro. Hai fatto bene a cambiare, non so se cambio pure io, perché mi stanno rompendo le scatole. Guarda, io cosa vuoi dire, magari non so adesso come si comportano queste delle poste, però intanto io nel frattempo l'ho cambiato, così mi viene bene anche a fare la ricarica, tutte le volte che prendo la pressione posso fare la ricarica, però ogni 3 mesi, non tutti i mesi, non se capita, ogni 3 mesi, 30 euro ho pagato, poi 3 mesi, e così la devo fare adesso il 12 di dicembre la ricarica, si può immaginare. Quando vado a prendere la pensione, dicembre, le faccio la ricarica dopo, per altri 3 mesi. Io ho quella SIM che non l'ho più ricaricata, perché ho quella Vodafone e quella SIM, però quello della SIM non l'ho più ricaricato, perché lo usavo per lavoro, no? Quando uscivo fuori, se non prendeva uno, prendeva l'altro. E sono rientrato. Ok, se rientrate, se è contento, per salutarvi qua, che io devo scendere giù, che mia moglie mi ha chiamato, me che sto apparecchiando, qui, se oggi sei in anticipo, 10 minuti in anticipo e oggi, faccio 4 ore addirittura, vabbè, sta apparecchiando, veniamo, basta, per parlare. Sì, ho fatto così, ho cambiato appunto Poste Mobile. Qualcuno me l'ha criticato Poste Mobile, però cosa vuoi che ti dica? Adesso quello, poi male malegato, allora c'è un barra lì, che pure mi dice, chi se ne frega. Vabbè, riprendi Clara, intanto vi saluto e vado a cenare. Ciao Claudio, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo domani, quindi parliamo anche un po' di Juve. E ciao Marco, saluto anche a te, grazie anche a te per la chiacchierata e naturalmente anche a Natalino. Grazie anche a te Natalino, alle prossime, a domani. Riprendi pure Clara, ascolto fino a dire di tutti e poi chiudo, dai. Ok, riprendi. D'accordo, giù, dai, e ho fatto più in fretta possibile, perché sta già iniziando a piovere anche qua. Ciao, grazie a te le due chiacchiere, a domani, se coincide, buona cena, buon tutto. KK, Marco, ci sei? Certamente. Ok Giulio, buona cena, buon proseguimento di serata, come li nomba, di serata, dai, ci sentiamo alle prossime. Natalino? Ciao Giuda, ci sentiamo domani, alle prossime. A avanti Marco. Claudio, a te ti risulta un certo Pantera ci ha venduto un baracchino nell'84-85. Pantera aveva i baffi e era meccanico, credo in zona, anzi proprio in Piazza Stazione. No, io di Pantera ne conosco uno ed è Vannino di Sorso, che si chiamava così, capito? Però altre Pantere non ne ho conosciuto, forse nel periodo che modulavo io già lui non modulava più. Però non mi dice niente questo con i baffi e con che era meccanico alla stazione, capito? E che baracchino ti ha venduto? Allora era un Midland 77/824 ed erano quelli, diciamo, i precursori dell'Alan 48, cioè quelli erano fine anni 70, invece l'Alan 48 è nato mi pare nell'83 o giù di lì. E li trattavo come cacca, invece ad averli adesso come pezzi da museo sarebbe bello. C'ho anche la foto, se la vuoi vedere. Fammela vedere, mandamela. Guarda, io ero amante dei baracchini di quella generazione lì, capito? E mi piacevano tantissimo. Tant'è vero che poi stavo iniziando a riempirmi la casa di stazioni base, baracchini veicolari, ma più che altro stazioni base. È quello che mi ha dato più soddisfazioni, ma il nome dice tutto, era Royce. Avevo la prima e la seconda serie. Il Royce era fenomenale. Veramente una bellissima radio, sia esteticamente che facendo anche il suo lavoro da baracchino, perché per me sempre baracchini sono, è inutile che un baracchino grosso, ben dotato, viene chiamato apparato, gli apparati sono quelli amatoriali. Per me sono sempre baracchini, però di stazza superiore, di fanno un lavoro diverso comunque, sempre baracchini sono. Va bene, me l'hai mandato? Eia, era bello, scuro sopra, le manopole cromate. Te l'ho detto, prima dell'Alan 48 esistevano quelli. Poi ho avuto anche il 150M, che era uguale a quello, però anziché nero sopra era tutto color silver. Adesso sto guardando questo, riprendi Natali. Riprendo per chiudere, perché mia moglie mi ha chiamato per mangiare. Là. Ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti. Ciao Natali, tante cosce belle. Sì, questo lo conosco. Si assomiglia un po' al Polmar 40 canali, te lo ricordi? Solo che il Polmar, quello con i LED, era una cagata. Questo già usciva bene, bell'apparatino. E il 150M era simile ma chiaro sopra, tutto chiaro. Solo che questi baracchini poi li ho dati, questo l'ho venduto, l'altro non so che fine abbia fatto. Invece averli adesso funzionanti sarebbero pezzi da museo. Lo so, belli erano, però in quell'era lì si usavano quelli, e cosa vuoi ti dica? E poi dopo di questo è uscito il 48, a parte che questo mi piaceva più del 48, come sai, cromature, codicetta cromata, manopole cromate, levette cromate, insomma una bella bestiolina era. Ho venduto a un compagno di classe, delle medie, che poi l'ha usato per fare i giabidure e poi non l'ha più usato. A saperlo l'avrei tenuto bene, ce l'avrei ancora il giorno d'oggi, ma vabbè dai, pazienza. Lo so, però vedi, in quel periodo lì ci accontentavamo un po' di tutto, capito? Ci accontentavamo, bastava un baracchino da niente per fare due chiacchiere e tutti eravamo contenti. Adesso non ci accontentiamo più di niente, capito? Eia, adesso ho sempre roba, sempre più bella. Ciao Natali, buon QRT se ci sei ancora, dai, sentiamo domani. Bene, bene, oggi sai che non ho mangiato, io non ho pranzato, io sto pranzando all'ora di cena dei cristiani e gira gira adesso chiudo anch'io, dai, chiudiamo tutti e mi guardo anche il telegiornale, che oggi non ne ho visto nulla di telegiornale, guarda che le notizie sono sempre quelle, quello che ha ucciso Noemi, quello che minaccia, quella scimmietta nordcoreana. Sempre brutte notizie sono là, belle non ce ne sono quasi mai. Ok? Dai, sentiamo domani. Comunque sono contento che questo piccolo bidoncino funzioni, almeno con questo microfono che li schiarisce i toni. Andrebbe bene anche con l'MB più 5. Solo che non lo posso usare l'MB più 5 perché non ha collegato il cavettino della ricezione. Perché qua se tolgo il mic rimane silenzioso l'apparecchio, invece questo microfonino qua gli ho messo apposta il cavettino della ricezione proprio per funzionare su questo apparato. E così dai, Claudio, dai, così stacchiamo antenne e tutto, approfittiamone adesso, io mi guardo anche il TG e mangio, ok? Ci sentiamo Claudio, buona serata, buon tutto e sentiamo domani, tanto dove vuoi che vada, cos'è che faccia io, sarò sempre a casa, dai. Ehi Marco, va bene, dai, ci sentiamo, stammi bene e alle prossime, ok, no, sto guardando al wattmetro qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scala 20, e 12 watt, 13 watt sta dando, non è più, dai. Questo qua va bene, ciao Marco, buon pranzo, buon tutto, salutoni, a domani, ciao. Yeah. Questo 4 watt come sempre ovviamente omologato. E yeah. Ciao Claudio, buonanotte, buon tutto, dai, stacca tutto, mi raccomando. Già ti credo, no tranquillo, è una nottata un po' particolare oggi, ci sentiamo domani, statemi bene, grazie alle due chiacchiere a tutti, ciao ciao. Ehi, ma lo sai che a parte staccare l'antenna mi portavo anche baracchini in camera io, me li portavo in camera perché anche se tocchiamo ferro, no, se dovesse scendere attraverso l'antenna incenerisce tutto quello che c'è intorno. Se vogliono essere pignoli, anche se lo stacchi, te lo incenerisce lo stesso, anche se è staccato, se tocchiamo sempre il ferro, dovesse scendere proprio diretto sull'antenna. Però sai, mi viene sta mania di staccare e portarlo via da qua. Va bene, buonanotte. Ciao Marco, ciao, alle prossime. Valerio!